Per me i classici russi sono tutto ciò che nasconde una preziosa gemma dietro a un paravento noioso. Ma sto crescendo e Natalie me l'ha detto. Devo guardare in faccia i miei demoni. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Quando ho letto La montagna incantata avevo 21 anni. Era l'estate del 1996. Era un'estate in cui avevo in mente di cambiare qualcosa e invece non cambiai niente. Il libro era un compito per le vacanze, ovviamente, e infatti di quel romanzo lì mi ricordo pochissime cose, tipo che il protagonista aveva la tubercolosi e se ne stava rinchiuso in sanatorio per diversi anni. Tutto qui, insomma, praticamente niente. Ricordo però benissimo chi ero io mentre lo leggevo. Ricordo a che punto ero della mia vita. Della storia che volevo chiudere e non chiudevo, dell'università che volevo lasciare e non lasciavo, di quel senso di inettitudine, di impotenza. Ricordo anche il caldo di quell'estate, passata tra le zanzare della pianura e il mare della Toscana. Ricordo che Pizzula ancora faceva la telecronaca della nazionale italiana per gli europei di calcio, quelli dell'Inghilterra, vinti dalla Germania. Ricordo che non era un periodo stupendo, ma che di lì a poco lo sarebbe diventato. Ed è strano perché se guardo una foto di quel periodo lì, io non mi riconosco. Sono diverso, sembro proprio un'altra persona. Se però prendo in mano quel libro, se ne sfoglio le pagine, se cerco qualche nota che avevo scritto a matita, ecco, immediatamente quel Matteo lì, quello 21enne di quel periodo, si ripropone immediatamente, come se uscisse da quelle pagine, che odorano di muffa. E credo che sia sempre così. Cioè, quando pensiamo ad un grande libro che abbiamo letto anni fa, ci vengono in mente la storia di quel romanzo, ma anche la nostra storia. Chi eravamo noi mentre lo stavamo leggendo? Voi. Chi eravate voi quando avete letto quel grande libro anni e anni fa? 800240024 349-238-6666. Perché dicono che i grandi libri ogni volta che li leggi hanno delle cose da raccontarti, no? Questo è una specie di adagio che dicono di solito i professori o gli intellettuali o quelli o gli scrittori anche, o quelli che ti dicono: guarda, rileggo ogni 7 anni Amleto perché ogni 7 anni Amleto mi dice qualcosa di diverso. Insomma, quella può essere presa come una boiata pure no, non lo so. Però quello che è vero e di cui mi sono accorto recentemente, l'avrete capito, no? Stando in una biblioteca tutte le mattine mi è partito il trip dei libri e quindi quello vi sorbite. Comunque è che quando prendi in mano un grande libro che hai letto anni fa, magari ti ricordi poco o magari ti ricordi tutto, però sicuramente ti ricordi chi eri tu quando hai letto quel libro. Cioè, ti ricordi dove l'hai letto, ad esempio, della cosa più semplice, se l'hai letto in vacanza, oppure se l'hai letto in un posto particolare, se l'hai letto con una persona particolare, e soprattutto ti ricordi un pochettino chi eri in quell'epoca lì. Alcuni passaggi ti ricordi che, ad esempio, li avevi letti in un modo e altri invece oggi li leggi in un altro, perché tu sei una persona diversa, ovviamente, perché magari facevi l'autostop in giro per l'Europa quando lo leggevi, adesso invece dirigi una multinazionale svizzera che ha sede a Norimberga. 800240024 349-238-6666. Dave mi scrive: il mondo nuovo di Huxley, ero giovane e ingenuo, tanto, tanto ingenuo. Mi ha aperto un po' gli occhi però, ora invece si sono socchiusi perché guardo ancora la TV. Ma io te li terrei aperti invece guardando la TV se fossi in te. Jean-Paul: ho letto 100 anni di solitudine girando la Svezia in autostop, ad esempio. Adesso Jean-Paul, che cosa fai adesso? Se rileggi 100 anni di solitudine, che cosa ti viene fuori? Magari poi invece l'hai fatto l'anno scorso e più o meno non sei tanto cambiato. Manuel: lo zen è l'arte della manutenzione della motocicletta. Allora, cioè 20 anni fa, ero l'outsider del branco. Ah no, scusate, ero l'outsider del branco del sabato sera, che alternava le stroboscopiche e mezzo sconosciuti a serate nella casa dei genitori e dei genitori a leggere la filosofia di Fedro sul tavolo in cucina. Oggi, a 44 anni, ho capito che tutti siamo stati, almeno una volta, Fedro. 800240024, Lucia: lessi Un amore di Dino Buzzati a circa 22 anni. Il protagonista del romanzo, in gran parte autobiografico, era un uomo di oltre mezza età, allo stesso tempo disperato e ridicolo nella sua illusione di portare avanti un amore improbabile con una prostituta ventenne che di lui si beffava senza remore. Leggevo il libro e vedevo il mio innamoramento, quello di allora, quello di quei tempi, con la stessa sensazione di inopportunità e di sofferenza. Una storia impossibile, ma questo mi aiutò a sentirmi meno sola, a vivere tutto più intensamente. Non tutte le storie hanno un lieto fine, e sapere che un grande scrittore stava facendo la mia stessa fine dava dignità vita nuova, al mio senso di sconfitta. Ciao, Lucia. È appunto esattamente questo quello di cui sto parlando. È un romanzo che lo prendete in mano e vi apre uno spiraglio, vi apre come una smagliatura spazio-temporale. Voi improvvisamente tornate ad essere la persona che eravate quando quel libro l'avete letto. Qualsiasi libro sia, di solito questo effetto lo fanno i grandi libri, lo fanno i grandi classici. Forse, non so, se leggete Sophie Kinsella quando avete 20 anni e poi lo riprendete in mano quando ne avete 50, ma no, magari no. Magari invece fa esattamente quell'effetto lì, perché no? La buona Sophie Kinsella, come si chiama? I Love Shopping, no? Quella... Ci hanno fatto un film? Sicuramente ci hanno fatto un film. Viola, ci hanno fatto un film, no? Viola non lo sa, ma cerca subito. Brava Viola. 80024 0024 349 238666. Il diavolo veste Prada? No, non c'entra. Bonini, non dirmi le robe che poi vado nell'altra direzione. Insomma, se vi ricordate un libro che vi ricorda di voi, il numero è sempre quello. E adesso invece tocca a me. Stare in mezzo ai libri tutto il giorno. Questa roba è strana. E dopo un po' ti fa pensare a quanta fatica è stata fatta a scriverli. Ma soprattutto quanta è stata fatta per leggerli. Perché mettersi a leggere un libro è un impegno. Se lo fai male non ci capisci niente. Devi avere una certa continuità. Insomma, devi fare fatica. Mi sa che in questo periodo la mia vita è troppo serena. Mi ci vuole un po' di lavoro vero. Mi ci vuole fatica, sì. Mi ci vuole un mattone. Quindi ho deciso che farò come mi ha detto Natalie. Mi leggerò un classico russo. Non so bene da che parte cominciare, perché di mattoni, cioè di quelli che cominci oggi, non sai quando finisci. Qui in biblioteca ce ne sono a mazzi. Greci, latini, tedeschi, francesi, indiani. Per me però tutti i libri pesanti, lunghi e difficili, ecco, tutti quelli lì io li chiamo classici russi. Forse perché quando andavo a scuola c'era sta professoressa che ci ha fatto una testa così con sti russi. E ce n'è anche mandato giù qualcuno a forza, senza ovviamente che rimanesse nulla. Mi ricordo giusto i nomi: Pushkin, Gogol, Tolstoi, Dostoevsky, Chekhov, Pasternak. Mi sono entrati sotto pelle e sono stati talmente pesanti che hanno fatto diventare russi pure Omero, Proust, Victor Hugo, Goethe, Thomas Mann e pure Manzoni. Sì, per me i classici russi sono tutto ciò che nasconde una gemma preziosa dietro a un paravento noioso. Però sto crescendo piano piano e Natalie me l'ha detto: devo guardare in faccia i miei demoni. E probabilmente lei così stava già consigliandomi il primo libro, però non le ho dato retta. Ora lavoro in una biblioteca e non ho bisogno di consigli. Mi basta guardare uno schedario e farmi quattro passi fra gli scaffali. I tomi da 1000 pagine sono lì a guardarmi. Tutte quelle storie di guerre e di amori non corrisposti stanno lassù a dirmi: leggimi, perché ho qualcosa da insegnarti. Che poi le trame dei libri famosi le sanno già tutti, no? Anche perché di solito ci hanno già fatto un film, tipo il Dottor Zivago, quel libro famoso in cui c'è questo tipo che assomiglia a Omar Sharif, c'ha moglie e figli, però siccome gli piace la vita allegra si innamora di una giovane croce rossina e lo fa proprio nel mezzo della rivoluzione. È solo che poi torna a casa con la moglie perché è un cretino. Vedi? La letteratura è facile. Ora però sono indeciso, devo scegliere un libro da leggere e non so quale. Devo fare una cernita. È dura la vita del bibliotecario. Dunque, vediamo. Allora, ci sarebbe il Faust di Goethe, dove c'è il diavolo che vuole scommettere con Dio che riuscirà a corrompere sto tizio tutto d'un pezzo, che è un medico ma è anche teologo. Dio non accetta la scommessa, però siccome è un po' un birbante, gli dà il permesso di tormentare il dottor Faust. La parte migliore del libro è quella delle tentazioni e di quella gnocca di Margherita. Niente, no, questo già lo conosco. Vediamo un po'. C'è Delitto e Castigo. Dunque, praticamente è la storia di un bamboccione che si fa passare per studente. Gli sta sulle palle la padrona di casa che gli chiede sempre l'affitto. Una vecchia che peraltro è davvero antipatica a tutti, pure ai lettori. E un giorno, che se anche se è a San Pietroburgo e fa un caldo pazzesco, sto Raskolnikov va fuori di testa e l'ammazza. Poi si dispiace tantissimo e quindi va in Siberia con una prostituta. Niente, conosco anche questo. Passeggiare per gli scaffali mi consente di vedere un sacco di titoli. Prima o poi ne troverò uno da portarmi a casa. Ecco, forse potrebbe essere proprio La Montagna Incantata. dove c'è sto tizio che va a trovare un cugino in ospedale in Svizzera. Solo che prima di partire gli fanno delle analisi e gli trovano un problemino che in un paio di giorni diventa, pam, tubercolosi. Da lì si evince che andare a trovare i parenti all'ospedale porta sfiga. Ovviamente non contento, il protagonista decide di passare in quel sanatorio 7 anni, che non sono poi così male perché ci sono signorine svizzere di facili costumi e gente interessante con cui chiacchierare. No, niente, questo lo conosco perché l'ho letto da ragazzo. Ecco, magari allora è Rosso e il Nero, dove c'è un tizio ambizioso che va a lavorare come segretario personale da un po' di marchesi e di sindaci. Dovunque vada, la moglie o la figlia del padrone si innamorano di lui e lui se la gode, e se la gode pure. Tra una cosa e l'altra le signore se lo prendono e com'è come non è, non lo fanno mai finire ghigliottinato. Anche se poi, molto gentilmente, dopo che il poveraccio muore, lo perdonano, anzi uno addirittura raccoglie la testa staccata e gli dà pure un bacino. Carino, no? Vabbè, pure c'è Guerra e Pace, che c'è una storia così complicata che manco Tolstoj se la ricordava. Da quel che ho capito, lui, che era molto devoto ai santi ma anche molto indulgente con se stesso, aveva segretari personali per tutto e anche una per ricordargli la trama dei mattoni che scriveva. Non ce la faccio, sono indeciso. Torno scornato al mio bancone di lavoro, dove trovo un libro che mi hanno riconsegnato mentre ero in giro. Non so chi sia stato, però. Però me l'hanno appoggiato lì. Guardo il libro, è Anna Karenina. È la storia tristissima di questa donna che si innamora di un cretino che lei crede sia chissà chi. Lei soffre un casino perché le donne soffrono sempre, soprattutto se si innamorano di cretini. E forse è per questo che Tolstoj la fa ammazzare sotto un treno, perché era un misogino maledetto. È la storia di un amore contrastato ma pieno di toni di grigio, dove c'è un eroe e soprattutto non c'è nemmeno qualcuno che ti dica che cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato. Ecco, forse è quello il libro che dovrei leggere. Cerco ancora di capire chi è che l'ho restituito, ma in biblioteca siamo organizzati, quindi ci sarà scritto sulla scheda. Faccio per prendere il raccoglitore, quando davanti a me compare una figura conosciuta. È una donna. Sulle prime non mi accorgo di chi sia, forse perché ha un taglio di capelli diverso, ma poi la riconosco. È Giulia. Proprio Giulia. Sì, lei. Quella che mi ha lasciato da un giorno all'altro. Quella che mi ha lasciato con un messaggio in una bottiglia. Lei che mi guarda e mi chiede che cosa ci faccio dietro il bancone. E io vorrei chiederle che cosa ci fa lì lei. E aggiungere magari anche qualche brutta parola. Però sono un signore e mi trattengo. Le chiedo se le è piaciuto il finale del libro e se lei non ci aveva mai pensato. Lei non ride. E nemmeno io. Una bella doccia, l'acqua scorre sotto i ponti che te non fa male. Bella vita, questa vita qua, cavalcando un boulevard. You don't love me, but I love myself. You don't really know what my life is done for. Matteo, hai fatto la sintesi del Dottor Zivago che manco Lorenzo Guzzanti con la Divina Commedia. C'è sta uno, va all'inferno, se va in giretto poi esce, Armando. A me succede tutte le volte che rileggo Don Camillo di Guareschi. Ritorno alla persona che ero e mi riporto a quando lo lessi la prima volta. Avevo 16 anni, ora ne ho 33. Ciao, Matteo da Rovigo. Ho letto Francesco e l'infinitamente piccolo di Bobin. Sarà veneto o francese? Ragazzi, quanto sono ignorante. Quando mi risultava facile pensare che la vita fosse piena di opportunità e di bellezza da conquistare, oggi so che vale solo la pena di cercare la semplicità di San Francesco. Mano. Quella, siamo su oggi, eh? Tutto Pennac. Ero alle prime supplenze nelle elementari. Lui insegnante scrittore, io insegnante studentessa. Ora penso alla Gelmini e ritornerei sui miei passi a accettare l'Erasmus in Finlandia. Vabbè, però, poi dalla Finlandia comunque ci devi tornare, a meno che non ti metti a fare altro là. Sarò banale, ma gli ultimi libri di Fabio Volo, Giuliano da Roma. Però Giuliano manca un pezzo. Cioè, la domanda è chi eri tu quando hai letto il libro di Fabio Volo? Però magari, essendo recente, non eri molto diverso. A 20 anni cercai di leggere Madame Bovary. Forse ho sbagliato a scrivere. No, l'hai scritto giusto, Bovary. Non ci riuscii perché mi sbatteva in faccia quella che ero allora, soprattutto la mia vita sentimentale. Io non volevo ammetterlo, ma appena ne leggevo una riga ero messa di fronte alla verità. Mi rivedevo in lei. Ora posso rileggerlo e lo farò. La mia vita è cambiata in meglio. Il mio demone è scomparso. Ciao, Roberta. 800240024 349 238 6666. mentre Viola, presentissima, a cui tra l'altro mandano un messaggio dicendo: a Viola, quanto parla sto caccia? Non so chi sia, magari è un amico tuo. Viola mi dice: Love Shopping è diventato un film nel 2009 con la regia di non so chi, di Hogan, PJ Hogan, con John Cusack. Ammazza, John Cusack ha fatto di quelle porcherie ed è bravo però. Andiamo però a Comoda Letizia. Buonanotte. Pronto Letizia? Sì, sono io. Ciao, buongiorno, perdonami, ti ho chiamata Como però. Niente. Senti, tu hai letto, Alla ricerca del tempo perduto, ma l'hai letto tutto? Dunque, non solo l'ho letto tutto, ma l'ho letto interamente 3 volte e ancora adesso ne leggo una parte. Calma, io ho 59 anni, quindi... No, ok, calma, ragazzina. Ma c'è gente che manca 80 però l'ha letto 3 volte, Letizia. Non ha importanza, perché a me è piaciuto. Quando avevo 20 anni l'ho letto perché faceva molto fico leggere delle robe intellettuali. Sì. Quindi l'ho letto in una maniera abbastanza superficiale. Poi l'ho riletto verso i 35 anni... E mi ricordo di come ero allora, quindi avevo già 2 matrimoni alle spalle. E a 35 anni? Sì. E mi sono molto immedesimata. Poi l'ho riletto, mettiamo verso i 45, sì? Che già avevo avuto... Altri 3 matrimoni alle spalle? No, solo un altro. Non ti fai mancare niente, Letizia, no, però. Non mi faccio mancare niente e comunque l'ho letto veramente in maniera differente in ogni periodo della mia vita. Adesso... ogni tanto lo riprendo, ma leggo soltanto Il tempo ritrovato, che è la parte finale. Senti, quanti sono i volumi? Sono 5, 4? Beh, sai, non lo so, perché io l'ho letto sempre nell'edizione completa. Ah, quella di un unico volumone. Bravo. Quella che fai fatica a tenerlo in mano, però, proprio. Sì, ma ha delle pagine stile libro di preghiera. Ah, ho capito, quindi molto sottili. Senti, invece ti do un consiglio. Se vuoi una mattonata russa, sì, di cui non ti pentirai mai, sì, leggi Vita e Destino di... Aspetta che me lo segno. Allora, veramente? Vita e Destino di? Grossman. Grossman? Ma Grossman l'israeliano? Vassili Grossman. Ok, quindi è un altro, insomma. Non è il Grossman... Siamo molto più vicini a noi di quanto non abbia citato tu Le anime morte, Gogol e compagnia bella. Senti Letizia, giusto per farmi un po' di fatti tuoi, che cosa fai nella vita? Adesso poco, ma però ho lavorato. E che cosa facevi? Mi occupavo della parte finanziaria di un'azienda. E leggevi Proust? E leggevi e rileggevi Proust, perdonami. Non solo Proust, ho letto... Amo molto leggere. Senti, tornando alla primissima volta, poi ti lascio, è la primissima volta che lo hai letto, che mi hai detto avevi 20 anni. Sì, era 20, 22. No, chi eri esattamente a 20 anni? Che anni erano, Letizia? Dunque, era finito il 68, perché io il 68 l'ho fatto che avevo 16 anni. A pie pari proprio l'hai fatto, ci sei buttata dentro? Sì, ero dentro al Parini, Zanzara e compagnia bella. Ok. Quindi avevo già una figlia quando l'ho letto, quindi avevo, pur essendo molto giovane, avevo già delle esperienze, capito, di madre e tutto. Comunque ero una testa di cavolo come se era 22 anni. Letizia, ti ringrazio moltissimo, soprattutto del consiglio. Vita e Destino. Grossman. Grazie mille, la borsa e poi sono qui. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao e sto qui. Nella foto di oggi invece siamo in una casa, esattamente nel soggiorno di una mansarda. È un appartamento all'ultimo piano. A guardarlo così potrebbe anche essere un appartamento, cioè una foto, non un appartamento, una foto degli anni 70, perché lo stile è quello. C'è un materasso in pelle, c'è una lampada ad arco con una sfera arancione sopra. Le sedie anche sono stilizzate. Ricorda un pochettino qualcosa della casa... Da cui vengo, della casa dei miei, di quando mi ricordo fine anni 70, primi anni 80. La cosa meravigliosa è che ha la finestra aperta su un amplissimo terrazzo. Le pareti sono bianche, ma sembrano arancioni perché c'è qualcosa che fa un grande riflesso. E non so che mese sia, ma se è scattata a febbraio, questa foto e questa casa arrivano per forza dal sud Italia. Enzo Pappalardo, 37 anni, salotto di casa mia, a Nicolosi. Introspezioni d'arredo, forme e colori del febbraio etneo. Io sono qui. Nicolosi è in provincia di Catania, quindi ci avevo beccato, perché solo in Sicilia può esserci questa luce nel mese di febbraio, e la luce che c'è in questa foto. Andate a vedere la foto, è sul sito radio24.it, alla pagina Io sono qui. A proposito di foto, ho bisogno di voi oggi per domani. Domani vorrei che voi mi deste una mano a raccontare, voi per una volta, delle fotografie, non fotografie qualunque, ma delle fotografie antiche che vi è capitato di ritrovare, delle fotografie che riguardano la vostra vita, che riguardano voi quando non eravate ancora così o stavate per diventarlo. Se vi è capitato di aprire un libro e trovarci una fotografia, di aprire un cassetto e trovarci un album, oppure se state facendo un trasloco e lì spuntano come i funghi, io sono qui, @radio24.it, oppure il profilo Facebook che è Matteo Caccia, io sono qui, addirittura se volete caricarle, e domani mi piacerebbe che le raccontaste in diretta. Io sono qui, @radio24.it, oppure Matteo Caccia, io sono qui su Facebook. Andiamo ai messaggi invece di chi eravate quando avete letto quel libro. Il pendolo di Foucault, di Eco: prima pensavo di essere mediamente intelligente, dopo la lettura di quel libro ho realizzato di non esserlo affatto. Ciao Enzo. Enzo, benvenuto nel club. Flash: grande viaggio a Kathmandu, letto a 24 anni, all'epoca mi facevo, ora ho 42 anni e l'ho riletto con senso di scampato pericolo, da 14 anni ho smesso. Bravo Luca. L'uomo che guarda, di Moravia: avevo 21 anni e mi spaccavo di canna. Ragazzi, che infanzia, che gioventù difficile che avete avuto. Mi spaccavo di canna, ma ero felice. Ora ne ho 40 e lo sono un po' meno. Valerio. Quando ho letto Arebuar di Wismans, ragazzi, era un inverno rigido ed era una ragazzina cinica ed arrogante. Quando ho letto Anna Karenina di Tolstoj, era un'estate in Sardegna di una noia assoluta ed io mi ero isolata nel libro, riuscendo a non conoscere nemmeno una persona in 2 settimane. Di Zara Brescia. Che argomentone! A quando l'oro dei Templari? Che non capisco cosa voglia dire. L'oro dei Templari? Ah, ho capito, forse si riferisce. Vabbè. 1998, 100 anni di solitudine finito, mentre preparavo lo zaino per il viaggio che ha cambiato la mia vita e ancora non è finito. Andiamo però andiamo a Pavia da Roberto. Pronto Roberto? Pronto, sono. Ciao, sei qui? Sì, sono Roberto da Ferrara. Ah, da Ferrara, ah, scusami, perché ce ne sono, c'è un Roberto da Pavia e un Roberto da Ferrara, perdonami. Va benissimo, nessun problema Paolo, andiamo, siamo con te, Roberto da Ferrara, bravo che allora, fai. Ascolta, il mio libro è Terra degli Uomini, sì? Che è il libro di Saint-Exupéry, quello del Piccolo Principe. Sì. Tutti hanno letto il Piccolo Principe, nessuno, solo io ho letto Terra degli Uomini. Cioè sei l'unico in tutta Italia, Roberto. Non lo so, forse in Europa. Non ho mai trovato nessuno che l'abbia letto. E come ci sei arrivato a sto libro? Ma guarda, stavo partendo per il deserto, che andavo a lavorare per una ditta che faceva aerei, mm-hmm. E ho trovato su una bancarella il libro di questo qui che diceva, che racconta di avventure di pilotaggio nel deserto negli anni 30. Io l'ho letto, mm-hmm. Intanto che ero proprio sul posto, per caso, e niente, è il libro della mia vita. Ecco. E adesso quanto tempo è passato adesso, Roberto? Adesso, guarda, avevo 22 anni, adesso ne ho 53, quindi ne sono passati di anni. E però fai ancora quel mestiere lì? No, ho cambiato, non ho potuto fare il pilota, ho fatto altre cose, però mi è rimasto l'idea di quei 22 anni nel deserto, insomma. Sì. Cioè, e di avere il futuro di fronte a sé e la possibilità di fare tutto, insomma. Ma quindi perdonami Roberto, poi ti saluto, c'è del rimorso nel rivederlo, nel rileggerlo, nel tenerlo in mano, oppure semplicemente pezzo della tua vita che è andata? È la constatazione che un pezzo della mia vita che è andata, che non ho potuto fare altro, non ho potuto fare il pilota per questioni fisiche, però sarebbe stato bello farlo ed era bello allora avere immaginarlo. L'idea di farlo, ecco. Roberto, ti ringrazio molto e soprattutto ricordiamo per chi, tutti quelli che hanno letto Il Piccolo Principe, Terra degli Uomini, che è il libro che nessuno invece ha letto. Andiamo invece da Roberto di prima a Pavia. Pronto Roberto? Ecco Matteo. Ti immagino lì che dicevi pronto. Ma fortunatamente è meglio così, perché adesso sono arrivato a casa, prima ero in macchina, mi stavo per schiantare. Bravo, hai letto anche tu La Montagna Incantata? Dunque, io ho letto La Montagna Incantata, ti parlo di una decina di anni fa, adesso ho 33 anni, quindi ero ricoverato al Policlinico a San Matteo di Pavia con un'intossicazione alimentare, quindi un'epatite A fulminante, con le transaminasi alle stelle, quindi mi sono immedesimato perfettamente nel personale. Senti, quanti giorni sono stati in quanto l'hai letto? Diciamo 20 giorni, 15 giorni, perché insomma è un bel blocco. Ah sì? Beh, l'hai letto anche tu, no? No, no, no, il libro, io temevo l'intossicazione alimentare. Sì, sono stato una decina di giorni in ospedale. E anche quello è stato un bel blocco, mi sembra di capire. Sì, abbastanza. Grazie Roberto, buona giornata. Grazie a te. Ciao, grazie. Mi scrivono che Vita e Destino merita, ancora 1996, primo anno di università a Pavia, Alessio on the road era fantastico. Andiamo da Francesca Carla, provincia di Milano. Pronto Francesca Carla? Buongiorno Matteo, buongiorno. Buongiorno, come stai? Sto bene, sto bene. Cosa avevi letto a 17 anni? A 17 anni era un periodo, diciamo, terribile, no? Perché avevo saputo che mio padre non sarebbe più guarito, no? Sì. Stato a letto 6 mesi. Io mi ricordo che per distrarlo un pochino, no? Uh-huh. Avevo comprato dal giornalaio, che era proprio di fronte a casa mia, ero andata a scegliere un libro perché volevo qualcosa che fosse un po' divertente. Avevo scelto Bertoldo, Bertoldino e Cacascenno. E glielo leggevo ad alta voce. Ad alta voce glielo leggevo, cambiando le parole, come sentivo fare dalla mia maestra, che si chiamava Libera, sì, è ancora vivente oggi, che ha 98 anni, a scuola, quando ci leggeva Cuore o Pinocchio, lei cambiava le parole a seconda dei personaggi. Ma in base a... Ah, ma non le parole, scusami Francesca, cambiava il tono di voce. Cambiava il tono. Ah, ok, cioè interpretavi i personaggi, sì, Francesca. E mio papà restava a volte veramente incantato, mi diceva, mi rileggi di nuovo quel pezzo lì, rileggimi lì, dove Bertoldo così, in modo così furbo, riesce Francesca, a fuggire la pena di morte. Francesca, di che parte del Piemonte sei esattamente? Io sono della Valle di Susa, sei della Valle di Susa, guarda, avrei detto vicino a Torino, però insomma Vaie, va bene. Dove c'è l'acqua, Matteo, te lo devo dire, l'acqua, una fra le migliori di tutta la valle. Va bene, Francesca, ti ringrazio molto, andrò a Vaie apposta per bere quell'acqua. Buona giornata. Vale la pena. Ciao Francesca, grazie. Sembrava buon pomeriggio a tutti. A tutti, saluta ecumenica Francesca, grande come il Papa. Andiamo a Pisa da Guido. Pronto Guido? Ciao Matteo, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. È un bel tema anche quello di domani delle foto, tra l'altro anche abbastanza, diciamo, coniugabile con quello di oggi, perché in genere le vecchie foto cascano fuori dai vecchi libri. Esattamente. E spesso mettono anche in imbarazzo se non sei da solo in quel momento. Sì, più che altro perché dalla tua faccia magari si capisce qualcosa di quella foto e di quegli anni che sono passati. Soprattutto da coloro che stanno nella foto. Oltre a quello, certo, oltre a quello. Persona di cui non... Senti, però Guido, la cosa interessante tua è che tu sei uno studioso di letteratura russa. Sì, tra l'altro oggi fate un gran parlare di letteratura russa, casco proprio a fagiolo. Perché io la letteratura russa la insegno all'università di Pisa. Ma senti, perché non so se hai capito, io purtroppo, visto che me l'hanno propinata sì, a forza, tutto, certo, qualsiasi grosso romanzo, anche se è francese, lo definisco letteratura russa. Senti, però dimmi un motivo, Guido, per cui uno oggi dovrebbe uscire di casa e andare a comprarsi Guerra e Pace o Anna Karenina. Perché dopo averli letti si diventa migliori, si capiscono molte più cose su se stessi e sugli altri. Perché Tolstoi ha capito talmente tante più cose sugli esseri umani di quello che possiamo capire noi, che leggendolo impariamo a scrocco, diciamo che diventiamo a scrocco più intelligenti anche noi. Senti, ma è vero che Tolstoi era migliore, cioè era una persona peggiore di quella che usciva dai suoi romanzi? Ma era un gran rompipalle. Ok. Tolstoi, come si vede tra l'altro benissimo anche dai romanzi, lui viveva esattamente secondo la filosofia dei suoi romanzi, quindi era, come si può capire, un gran rompipalle. Quello che riusciva bene in letteratura riusciva molto meno bene nella vita. Guido, ti devo salutare purtroppo perché ho finito il tempo, però mi auguro che qualcuno, guarda, se anche uno, finito questo programma, uscirà e si comprerà un classico russo, noi oggi avremo fatto qualcosa di buono. Grazie mille, ciao. Buona giornata, ciao Guido. Vorrei chiudere, perché devo veramente salutarvi, con una mail che mi è arrivata, che è dedicata a tutte le persone che ascoltano di notte, purtroppo non in replica perché non c'è più, ma in podcast, questo programma. Ore 3:55. Caro Matteo, sono le 3 di notte e non riesco a dormire. Come spesso mi accade, mi sveglio con l'urgenza di fare qualcosa, di scrivere qualche riga. Ecco, vorrei rivolgermi a tutti i dormienti che ascoltano la tua trasmissione. Quelli che durante il giorno fanno una vita normale, lavorano, portano i figli a scuola e corrono da una parte all'altra, sentendo scivolare il tempo fra le mani, come fossero clessidre. E ne soffrono. La notte invece si svegliano e si girano e rigirano nel letto, con l'impressione di avere dimenticato qualcosa di importante. Allora si alzano e continuano a fare quello che non possono fare a meno di fare: scrivere, dipingere, o magari semplicemente finire dei puzzle. Ecco, vorrei dirvi che io sono qui. E il fatto che ci siate anche voi mi fa sentire meno sola. Ieri alla fine del tuo programma ero in macchina con mio figlio e la complicità che si era creata mi ha spinto a dirgli: guardami, ti voglio bene. Ho visto la gioia nei suoi occhi e il merito è un po' anche tuo. Ti ringrazio. Una dormiente. Grazie a Viola Bottoni, grazie a Stefano D'Andrea e Paolino Corleoni. L'ultimo messaggio di oggi è di Lello, da Vicenza. Ciao Matteo, ho mandato un sacco di messaggi ma non li hai mai letti. Faccio il numero giusto? Risposta è sì.